19 minuti e 25 secondi di martedì 3 novembre. Questa è la terza parte di 24 Mattino, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Al microfono sempre Simone Spezia. Alle 8.35 avremo ospite la vice ministra agli esteri, Marina Sereni, con la quale ovviamente parleremo anche di quello che è successo ieri a Vienna. Ci occuperemo dei pescatori di Mazara del Vallo. La vicenda sembra essere finita nel silenzio, non fosse per il nostro Alessandro Milan che ce la ricorda tutti i giorni, e parleremo ovviamente di molto altro, comprese le elezioni americane, perché oggi si vota. È il momento però del nostro appuntamento, come sempre, con Paolo Mieli. Caro Paolo, per un punto di giornata ci Eccomi, ci siamo. E non possiamo che partire da quello che è successo ieri sera a Vienna. In realtà, io dico è successo ieri sera, ma in realtà le cose stanno continuando ad andare avanti, perché siamo alla ricerca, la polizia austriaca, qua sentiamo un audio di sottofondo di quello che è successo ieri, gli spari. La polizia austriaca è ancora alla ricerca di uno o più degli attentatori di ieri. Cosa rappresenta, Paolo, secondo te, l'attacco di ieri? Beh, l'attacco di ieri è la chiave per capire anche quello che è successo nei giorni scorsi, la decapitazione del professor Paty in Francia, poi l'attacco a Nizza. E contemporaneamente, mentre ieri sera c'era un attacco a Vienna, quello di cui hai fatto sentire l'audio, bisogna ricordare che a Kabul un comando dell'ISIS ha fatto strage all'università, ha ucciso 22 universitari. La morale è chiara, sono tornati all'attacco, approfittando anche della crisi mondiale del Covid, gli estremisti islamisti, e fanno vedere che ci sono, e lo fanno vedere con una, così, con una preparazione militare. Qua, sai, non si può ridire come sempre un lupo solitario. Qual è un lupo solitario? Qui sono vari comando che agiscono in varie parti della città, vanno a sfidare una sinagoga. Tra l'altro non è detto neanche che fosse quello il loro obiettivo. Sì. Sicuramente. Anzi, il posto anzi non Paolo, è scelto a... Paolo, scusa, ti interrompo solamente per questo, solamente per dire che in realtà la presidente della comunità ebraica locale di Vienna ha detto molto probabilmente non era la sinagoga l'obiettivo. Forse più probabilmente l'idea è che, dato che la sinagoga è là in centro, colpire le persone che si trovavano nei caffè, nei bar nel giorno che precede l'avvio del lockdown, no? Down, però andare a fare in quella strada, perché vedi, la sinagoga di Vienna fu colpita una quarantina di anni fa, anzi 39 anni fa, nell'81, da un gruppo di fedain guidati da Abu Nidal, insomma, che facevano riferimento a Abu Nidal, e fu una cosa che fece enorme scalpore in Europa, per cui da allora quella sinagoga è particolarmente presidiata. In più, come dicevo, questo comando questa volta probabilmente si dice che sono ceceni, perché è stato trovato che fu un ceceno quello che uccise il professor Paty, e dicevo che assomiglia all'attentato a Mumbai, quello del 2008, con c'erano 10 gruppi sparsi nella città che facevano attentati e uccisioni contemporaneamente. Insomma, è una vicenda, alcuni giornali lo dicono, che ricorda il Bataclan. Non sono, non è un lupo solitario. Che cosa si può dire in più? Sì. Dimmi. Prego, Paolo. Che sicuramente c'è un nesso fra la decisione di attaccare in questo momento e la debolezza dell'Europa alle prese con il virus, e se vuoi un nesso simbolico lo possiamo trovare nel fatto che è stato accertato che l'attentatore di Nizza, quello che era sbarcato a Lampedusa, poi è andato a Bari, poi in Sicilia, dove aveva organizzato e aveva risalito tutta l'Italia, è andato a fare l'attentato, era positivo. Ora, a parte il fatto appunto che ha risalito l'Italia tutto da positivo, chissà se aveva la mascherina, però così, insomma, secondo me questa cosa, ovviamente non intenzionale, non c'entra niente con quello di cui stiamo parlando, però ci sposta, sì, a un altro. Beh, perché se vuoi Paolo, te la butto là come riflessione, come pensiero, se l'obiettivo dei terroristi, se vanno a colpire i caffè, i bar e prendersele, l'abbiamo raccontato spesso anche col caso del Bataclan, e colpire quello che definiamo il nostro stile di vita, il Covid l'ha colpito ancora più duramente di quanto, anzi molto più duramente di quanto non abbia fatto il terrorismo a tutti gli effetti. E quindi terrorismo e virus uniti, questa volta ce la vediamo brutta, non sarà semplice. Poi noi abbiamo sempre l'idea che tanto l'Italia è posta al riparo, non del virus ma del terrorismo islamico, attenti perché da Torino filtrano notizie su minacce al vescovo di Torino, Cesare Nosiglia, non tutti i giornali lo danno, anzi lo danno pochissimo, io l'ho visto solo sul giornale. Però è sicuro che è stato messo sotto protezione e insomma vedremo, adesso dovremo avere un'ulteriore fonte di preoccupazione in più. Nel frattempo, come avrete visto e come tu hai già detto prima, in Italia è il giorno del DPCM, c'è il grande caos, sembra che le regioni saranno divise in tre gruppi, alcune con una sorveglianza più rigida, altri con autoconfinamento, qualcosa di simile, forse minimo comune denominatore sarà il coprifuoco dalle 20 o dalle 21 o dalle 22. O dalle 22, sì, ancora questo non si capisce. Paolo, come le vedi queste regioni? Ne abbiamo parlato prima. Le regioni sono scandalizzato. Perché io me le ricordo tutte, anche perché mi segno tutto, e mi ricordo le dichiarazioni dei presidenti delle regioni, soprattutto quelle di centrodestra, a maggio, quando si stava uscendo dal lockdown, che dicevano dobbiamo essere noi a decidere quando si entra e quando si esce, è insopportabile, noi vogliamo. Ci fu una regione, ti ricorderai, la Calabria, allora guidata dalla Santelli, che decise di uscire anticipatamente, aprire i bar, e adesso che si tratta invece della quella è una bella decisione da annunciare, usciamo prima, si torna tutti al bar, tutti, molto popolare, adesso che si tratta di annunciare le cose più difficili invece dico no, deve essere lo Stato a decidere per noi, si può andare avanti così, e aspettano pure, chiedono che la decisione sia presa uguale per tutta Italia, quando allora tutti coloro che hanno un po' di memoria ricordano che si disse ma che senso ha tenere le stesse misure per la Lombardia, per i posti più infettati, e invece i posti, la Lucania, non so, la Sardegna, allora la Sardegna era poco infettata. Pazzesco, cioè un paese senza memoria, senza capacità, ma memoria breve poi. Sì, comunque, a brevissimo, devo dire la verità. Le cose che mi hanno colpito, i positivi, il contrasto, l'eroe positivo e l'eroe negativo di Roma, Totti e Carminati. Ieri è stato il giorno in cui è stato annunciato che sono stati contagiati Totti e Carminati, mi ha fatto curiosità. Questa accoppiata, Gennaro Migliore, che ha fatto una festa di compleanno a Napoli, il fatto lo accusa perché dice che non aveva mascherina, non aveva niente, che i renziani sono fatti tutti così, insomma butta la colpa su Italia dei Valori. Andrea Crisanti, che dice che questo DPCM si annuncia confuso e che non si può dare alle regioni il diritto di interpretare i numeri come gli pare a loro, a me rimangono i dubbi di cui ti ho appena detto. E poi la Procura Generale della Cassazione, che ha detto arrestate solo se necessario. Beh, questo dovrebbe essere un principio valido sempre, arrestate solo se necessario. Capisco che adesso è ancora più valido, mi ha colpito la Merkel, che come sempre è più chiara, più coraggiosa, ha detto scordatevi il Natale, ragazzi, non ci saranno abbracci, non ci saranno feste, questa è una cosa per cui prevediamo quattro mesi difficili, complicati, è una lotta, non è più come il lockdown della primavera scorsa, ma è una lotta così a stanare il virus nei quartieri dove dove ha creato dei cluster migliori. Lo psichiatra Paolo Crepè, che dice che Conte non lo convince perché dice cose diverse un giorno sì, un giorno no, non ha un'idea chiara e soprattutto non la trasmette, però per fortuna è intervenuto Mattarella che ha obbligato anche il centrodestra, insomma ha convinto, ecco obbligato, ho sbagliato verbo, ha convinto il centrodestra a un atteggiamento più cauto, più berlusconiano e meno salviniano. Il centrodestra in Parlamento si astiene, i salviniani e i meloniani borbottano, però ha un atteggiamento più, più composito. Dimmi. A chiudere Paolo, c'è qualcos'altro che hai notato fuori di Covid? Posto che di elezioni americane parleremo domani, sapendo che presumibilmente non avremo il risultato, potremmo non avere il risultato a meno che non sia una valanga per Biden, perché ci sono un sacco di voti per posta che dovranno essere conteggiati nei prossimi giorni. C'è qualcos'altro che hai notato che ti ha incuriosito? Guarda, la notizia che ho letto più avidamente è che la Nuova Zelanda si è dato un ministro degli esteri che si chiama Nanania Maruta Maori. Ora voi direte che perché c'ha il mento tatuato. No, è perché i Maori sono gente tosta, mi è venuta alla mente, lo ricordano anche degli articoli sul Resto del Carlino, che Rommel diceva sempre, Rommel, la voce del deserto, il famoso generale nazista, campione di grandi vittorie, datemi un battaglione di Maori e il mondo sarà mio, vedrai che saranno i Maori a sconfiggere il virus e l'ISIS messi insieme. Poi mi ha colpito un bizzarro corsivo fogliettone dell'Osservatore Romano che mette insieme la morte di Proietti, quella di Sean Connery e l'anniversario della uccisione di Pasolini, bizzarra associazione. E poi, visto che stiamo parlando di Proietti, mi ha colpito che Michele Placido ha fatto un duro jacuzzi contro la politica, dicendo la politica non si è occupata di Gigi Proietti, vergogna. Forse ha ragione, nel senso che non gli è stata affidata a qualche direzione di teatro stabile, però invece a me Proietti credo mi stava simpatico, credo stesse simpatico a moltissimi italiani e non solo romani per questo motivo, per il fatto proprio che non trafficava con la politica, se non ha mai trafficato proprio, con se la ne politica. Fregava proprio, se ne fregava proprio. Ah, no, ha fatto dichiarazioni di voto per il Partito Radicale, per alcune battaglie, però si capiva che non era uno che approfittava di ogni occasione per dire sono contro Zingaretti, sono contro Salvini, sono contro Berlusconi. Pur essendo un uomo di sinistra, insomma, piaceva anche per questo. Non era uno che stava lì all'inseguimento delle mode o delle tendenze. O delle polemiche quotidiane. Del momento. E infatti c'è stato effettivamente un moto di affetto nei confronti di Proietti che non mi sarei aspettato. Chi vuole oggi tutto su Proietti, il giornale che fa a casa suo è il Messaggero, perché dedica le prime 7 pagine a Proietti, mentre gli altri parlano del Covid, delle elezioni americane, l'attentato di Vienna, il Messaggero tranquillo e beato, 7 pagine a Proietti. Niente, è un modo di aprire la giornata diverso. Grazie. Grazie Paolo, a domani, ciao. Ed eccoci di nuovo. Buongiorno a Marina Sereni, vice ministro agli esteri. Buongiorno a tutti e a tutte. Eccoci qua. Non possiamo che iniziare oggi da quello che è successo nella serata di ieri a Vienna. Abbiamo raccontato purtroppo anche che quello che sta continuando ad avvenire, perché si è alla ricerca di uno o più terroristi, non si sa esattamente. Segue di pochi giorni l'attentato di Vienna, l'attacco che è avvenuto a Nizza. Il governo teme, Sereni, un ritorno del terrorismo islamico? Beh, certamente dobbiamo tenere la guardia molto alta. Gli ultimi episodi che sono accaduti in Francia, ma anche in Germania, e ieri appunto e questa notte drammaticamente a Vienna, ci dicono che la minaccia terroristica è molto forte, è presente nelle nostre società, quindi dobbiamo tenere alta la guardia, dobbiamo collaborare, cooperare a livelli di intelligence e di forze di sicurezza, e dobbiamo mantenere chiaro che il modo migliore per sconfiggere il radicalismo, il fanatismo e la violenza terroristica è parlare con l'Islam moderato, parlare con quei milioni di persone che vivono nelle nostre società e che sono perfettamente integrate. Questo ci porta direttamente alla questione che molti hanno messo in connessione soprattutto con l'attentato di Nizza, ovviamente, ma adesso anche con questo, ed è l'alzarsi della tensione tra la Turchia di Recep Tayyip Erdogan e la Francia di Emmanuel Macron. Ormai gli ascoltatori lo sanno. Tutto è iniziato con l'uccisione e la decapitazione del professor Samuel Paty, che aveva mostrato in una classe nella quale stava facendo una lezione sulla libertà di espressione, le vignette su Maometto di Charlie Hebdo. Da là è scattato tutto e ci sono le parole di Erdogan, che ha accusato l'Europa di trattare i musulmani come i nazisti trattavano gli ebrei. E molti hanno messo, Sereni, in diretta connessione quantomeno l'attacco di Nizza con queste parole di Erdogan. Cosa rappresentano queste parole di Erdogan e se la sente di fare una connessione così diretta? Direi che questo può essere un errore. Io penso che noi abbiamo fatto bene a condannare con nettezza le parole di Erdogan, così come abbiamo ovviamente condannato l'orrore che è accaduto, diciamo, nei confronti del professore Paty in Francia. Però non sarei attento, ecco, sarei attento a non fare delle semplificazioni. Forse questo è anche il gioco di chi vuole innescare una guerra di civiltà. Noi abbiamo bisogno di dialogare con tutte le religioni, abbiamo bisogno di vedere che siamo di fronte a sfide comuni. In fondo anche la sfida terroristica è una sfida che minaccia tutti allo stesso modo. Noi non sappiamo di quale fede fossero alcune delle vittime di ieri sera a Vienna, è probabile che ci siano vittime di diverse fedi, per esempio. Quindi io penso che noi dobbiamo davvero stare attenti, diciamo, a non cadere nella trappola del terrorismo. Il terrorismo va condannato sempre, va combattuto con degli strumenti molto precisi, e la cooperazione internazionale è uno di questi strumenti, e al tempo stesso noi abbiamo ovviamente bisogno di dialogare con una gran parte del mondo islamico. Le reazioni che noi abbiamo avuto, per esempio, da imam, molti imam in Francia, ci dicono che c'è un Islam che vuole vivere in pace nelle nostre società occidentali, sì. Quindi sì, con quello dobbiamo parlare. Dall'altra parte è vero, Vice Ministro, che sullo scenario internazionale abbiamo il leader di un grande paese musulmano com'è la Turchia, appunto, che lancia dei proclami oggettivamente incendiari, cioè quelle parole sono oggettivamente incendiarie, certo. No? E una certa difficoltà di risposta da parte dell'Europa, netta fino a un certo punto, perché, e comunque lo abbiamo raccontato spesso, con la questione dei migranti, o meglio dei profughi siriani, una certa forma di ricatto Erdogan la può esercitare su di noi. Ma c'è qualcosa di più. Io vorrei che, intanto, la Turchia non è Erdogan, la Turchia è un paese molto più complesso, non è solo Erdogan. È indubbio che oggi il presidente turco stia utilizzando la chiave ideologica del nazionalismo per un verso e dell'identità islamica per l'altro, per nascondere dei problemi interni di carattere economico e sociale che pure affettano il loro paese. Di fronte a questo l'Europa deve tener conto che la Turchia è il nostro vicinato, è ancora un paese candidato all'ingresso nell'Unione, quindi la cautela, diciamo così, la complessità con la quale l'Europa ha cercato di affrontare il dialogo con la Turchia è per alcuni versi comprensibile. Noi dobbiamo con la Turchia discutere e contrastare gli atteggiamenti che non condividiamo in alcuni teatri regionali. Quindi Sereni, dice lei, non è pavidità quella dell'Europa a fronte del fatto che abbiamo fatto un patto col diavolo, se mi consente di metterla così? Direi di no, direi che c'è bisogno, l'approccio che ha scelto l'Europa in queste ultime settimane è un approccio teso a dire: discutiamo dei punti di dissenso, di contrasto con la Turchia. Il Mediterraneo orientale è uno di questi, ma ci sono anche altri elementi che riguardano alcune crisi nella regione del Mediterraneo e del Medio Oriente. Contemporaneamente lavoriamo con la Turchia per un'agenda positiva. Certo, le risposte che in questo momento abbiamo ricevuto dalla Turchia, da Erdogan, non sono soddisfacenti. Ecco, diciamo che abbiamo che notiamo una certa discrasia tra l'atteggiamento positivo, dialogante, per alcuni versi anche degli Stati Uniti in queste stesse settimane nei confronti della Turchia, e la reazione e i comportamenti con cui Erdogan diciamo si è rivolto al mondo. Quindi certamente non sarà una porta aperta al dialogo senza termini, senza nessun contenuto. Ecco, abbiamo bisogno di contenuti, abbiamo bisogno di vedere che questo approccio produce dei risultati. Accennava lei ai vari dossier aperti nel Mediterraneo, uno di questi, ed è un pezzo, no, del racconto dello scontro tra Macron ed Erdogan, è sicuramente quello delle acque territoriali di Cipro. L'altro è sicuramente lo scenario libico, che per noi è fondamentale per tutti i motivi che abbiamo elencato mille volte. Motivi di sicurezza, motivi di immigrazione, motivi di sicurezza energetica, sono tantissimi, e lo sappiamo. Però mi faccia partire da un caso che riguarda dei cittadini italiani, che sono i pescatori di Mazara del Vallo, che sono ancora là, di fatto sequestrati dall'esercito nazionale libico da oltre 60 giorni. Come si sta muovendo il governo? Beh, intanto cerchiamo di far capire ai nostri ascoltatori. Lei ha chiamato esercito nazionale libico delle milizie che non sono riconosciute come quelle dello Stato libico. Il governo nazionale, il governo di accordo nazionale libico, che è quello di Tripoli, che è quello internazionalmente riconosciuto, non ha responsabilità in questa vicenda. Stiamo parlando di autorità che si sono autoproclamate nell'est della Libia, e stiamo parlando di una vicenda che è accaduta, ahimè, in acque che il governo italiano aveva classificato come acque non sicure da tempo. Questo lo dico perché deve essere chiaro che la Libia molti anni fa dichiarò quelle acque di propria competenza, non è stato mai riconosciuto questa dichiarazione, ma in questo momento sono trattenuti dei pescatori italiani insieme ad altri pescatori di altre nazionalità, sono trattenuti da delle autorità che non sono riconosciute internazionalmente, che sono quelle legate al maresciallo Haftar. Sì. Noi ci stiamo muovendo in tutte le direzioni possibili, ci stiamo muovendo parlando ovviamente anche con degli interlocutori libici, ma ci stiamo muovendo soprattutto nei confronti di quei paesi come gli Emirati Arabi, come per altro verso la Russia, che hanno con quelle autorità, con quelle forze diciamo dell'est della Libia, della Cirenaica, un rapporto più stretto, perché noi, come è ovvio, non possiamo accettare questa situazione. Dobbiamo lavorare per riportare a casa sani e salvi questi nostri concittadini. Sappiamo che sono trattenuti in condizioni diciamo corrette, non sono in condizioni di promiscuità, cioè non sono trattenuti insieme ad altri prigionieri. Sappiamo che sono trattati decentemente, che possono avere i medicinali necessari attraverso la nostra ambasciata, quindi ci stiamo occupando delle loro condizioni concrete e siamo continuamente in contatto con le famiglie e anche diciamo con gli armatori. E tuttavia è chiaro che stiamo parlando di una situazione molto delicata, per la quale anche un grado di riservatezza in queste situazioni quindi non siamo in grado di dare dei tempi, Vice Ministra, cioè che siano giorni, settimane o mesi. Stiamo lavorando, ma non è sensato, non è prudente, non è nemmeno giustificabile dare dei tempi. No. Abbiamo una brevissima pausa. Poi sì, stasera si vota negli Stati Uniti, anche se, come dicevamo, probabilmente il risultato non lo sapremo domani mattina. Come legge il governo italiano questo voto, Sereni? Ma il governo italiano, come ha già detto il ministro, legge questo voto come un voto che riguarda il mondo intero, è la più grande potenza globale, forse l'unica superpotenza globale rimasta sul pianeta, ed è evidente che i risultati di queste elezioni avranno influenze per tutto il mondo, per tutto il pianeta. E noi siamo alleati degli Stati Uniti e lo saremo comunque, lo saremo chiunque sia il vincitore alla Casa Bianca nei giorni successivi. Guardiamo con grande attenzione e interesse quello che immagino tutti i democratici e tutti i democratici in senso lato, diciamo, tutte le persone di buon senso si stanno augurando che accada, e che ci sia un risultato chiaro, quello che temiamo, quello che è lecito temere di fronte all'incertezza, alle tante incognite del meccanismo elettorale, è che non ci sia un risultato chiaro e magari accettato da entrambi i contendenti. Quindi diciamo, questo è l'unico auspicio che mi sento di fare, cioè, speriamo in un risultato che sia chiaro e che possa far ripartire un nuovo, la prossima amministrazione americana, con la quale noi collaboreremo, così come abbiamo collaborato con l'attuale amministrazione Trump. Grazie Marina Sereni, Vice Ministra degli Esteri, per essere stata con noi. Le auguro una buona giornata e un buon lavoro. E andiamo a parlare di Covid, dei provvedimenti Covid. Partiamo da qua con Maria Stella Germini, capogruppo di Forza Italia alla Camera. Germini, bentornata, eccoci. Grazie, buongiorno a voi. Eccoci qua. Allora, il grande tema, per quanto vi riguarda soprattutto direi, è il coinvolgimento da parte del governo delle opposizioni. Che su questo fronte che segnali avete ricevuto? Cioè il fatto che Conte, diciamo, sia venuto in Parlamento è un elemento positivo? Ma guardi, noi abbiamo fortemente voluto un'astensione, non un voto contrario sulla risoluzione del governo, proprio perché Forza Italia non fa il tifo per lo sfascio. Noi ci rendiamo conto che questa è una stagione difficilissima, drammatica per il paese, quindi ciascuno deve fare la propria parte. Non c'è bisogno di governi di unità nazionale, basta che l'opposizione faccia la propria parte e altrettanto deve fare il governo. È chiaro che il governo ha commesso molti errori in questa seconda ondata che è stata prevedibile, purtroppo il governo si è trovato totalmente impreparato, però adesso è inutile recriminare, cerchiamo di mettere in sicurezza il paese, e quindi è chiaro che occorre una convergenza con le regioni, perché le scelte da fare sono difficili. Però mi pare che ieri si sia fatto un passo avanti. Sì. Qua mi pare che stiano facendo un po' tutti scaricabarile, Gelmini. Le regioni sul governo, il governo sulle regioni, si sta giocando un po' a questo gioco e mi pare pericoloso, in tutta sincerità. Beh, mi sembra molto opportuno l'intervento del presidente Mattarella, sì, il quale è sempre tanto attento agli interessi del paese. Credo che abbia fatto bene a interloquire ieri con le regioni, oggi con i presidenti delle Camere e anche con il governo. È chiaro che le scelte che si devono fare sono molto impopolari e difficili, però occorre garantire la salute, perché senza la salute non c'è l'economia. E quindi è chiaro che la curva dei contagi è molto molto preoccupante, è sfuggita di mano, su questo il governo delle responsabilità gravi le ha, però adesso dobbiamo evitare che il virus giri incontrollato all'interno del nostro paese. Quindi se dei provvedimenti regione per regione devono essere assunti, meglio farlo subito e salvare il Natale piuttosto che aspettare e poi compromettere una stagione che anche dal punto di vista del commercio è molto molto importante, dell'economia. Se la strategia del governo dovesse essere, come sembra essere, perché l'ha illustrata ieri in Parlamento il Presidente del Consiglio, quella arrivata ieri, questa suddivisione in tre fasce delle regioni, la scelta di lockdown regionali, è una strategia che vi sentite di sostenere come Forza Italia? Ma noi diciamo che a questa strategia si arriva perché durante l'estate non ci si è occupati del tracciamento dei tamponi, non ci si è occupati dei trasporti, si è fatta aprire la scuola in maniera un po' improvvisata. Quindi, come dire, questo DPCM è il frutto del fallimento delle politiche del governo. Però ad oggi mi sembra che l'aspetto positivo sia che le regioni non vengono lasciate da sole. Ci sono dei criteri nazionali a cui i territori si devono uniformare, e questo lo trovo giusto. Quindi è una strategia accettabile per voi per il momento? Sareste disposti a sostenere un lockdown nazionale nel caso si rendesse necessario? Ma guardi, noi ci auguriamo che questo non debba tutti noi ce lo auguriamo, però Germini. Noi abbiamo anche detto che vorremmo, per poter prendere una decisione, avere i dati precisi da parte del CTS. Invece sappiamo che purtroppo i dati all'opposizione non sono stati forniti in maniera adeguata, ma se fosse necessario, meglio subito che a Natale. meglio subito che a Natale eventualmente un lockdown. Germini, come sta lei tra l'altro, se non sono indiscreto? Io sto bene. Perché so che era positiva al Covid lei. Sì, io ero positiva, ma mi sono negativizzata da tempo, ero asintomatica, quindi sono stata piuttosto fortunata, perché davvero se non fossi entrata in contatto con un positivo neanche mi sarei accorta di avere il Covid, e in questo ci sta il dramma che stiamo vivendo, perché chissà quante persone come me sono asintomatiche e magari sono positive e non se ne rendono conto, quindi purtroppo questo virus è insidioso anche per questo. Però sto bene, quindi insomma, ho ripreso a lavorare da tempo. È fantasia l'ipotesi che al governo arrivi un appoggio esterno da Forza Italia? Sì, è fantasia, non c'è bisogno. Noi appoggiamo il paese, non appoggiamo Conte, non facciamo polemiche inutili. Il presidente Berlusconi segue con grande apprensione questa fase drammatica del paese, mi pare che gli interventi di Forza Italia in aula e nelle commissioni siano interventi propositivi. Noi stiamo già preparando con Renato Brunetta le nostre proposte sulla legge di bilancio, stiamo facendo lavorare i dipartimenti di Forza Italia con Antonio Tajani, con Anna Maria Bernini, stiamo costruendo la nostra proposta, e questo è il nostro modo di dare un contributo al paese. È inutile gridare, fare propaganda. In questo momento ognuno deve lavorare a testa bassa, e a noi il presidente Berlusconi ha insegnato questo, che si mette davanti agli interessi di parte e gli interessi del paese. Oggi il paese è in ginocchio. Cosa ne pensa l'idea di non segregare, però tenere gli anziani un po' più dentro casa? Allora, intanto non mi piace il termine anziani, perché trovo che sia, come dire, dall'idea di una debolezza che tante volte non c'è. Vabbè, gli over 70, ecco, che è vero, diciamo che gli over 70 sono tenaci, forti, e quindi non sono la parte debole del paese. È chiaro che quando a quell'età si associano delle patologie, è chiaro che è giusto salvaguardarli e preservarli. Sì. Però non ho condiviso le parole di Giovanni Totti, non ho quell'impostazione lì, anche perché ricordiamoci che gli over 70 sono quelli che hanno costruito questo paese, e dal punto di vista economico ancora adesso danno alle famiglie un aiuto. E poi chi lo tiene Berlusconi in casa, Germini? No, diciamo. Berlusconi e tanti Berlusconi come lui, perché non è solo, le assicuro che ho ricevuto tanti di quei messaggi dopo l'intervento di Totti, che, per cui insomma trovo che bisogna salvaguardare le persone che hanno delle patologie, ma da questa crisi ci si esce insieme, non segregando in casa le persone, cioè bisogna che siamo tutti molto attenti e che ci sia un gioco di squadra e un patto tra le generazioni. Grazie Maria Stella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, per essere stata con noi. Buona giornata. Ciao GR24, ci risentiamo domani alle 6:30. Ciao.